Giorno di Simone Spezia. Oltre 3.000 rifugiati nelle ultime 24 ore a Mosul, dove si combatte la battaglia contro l'ISIS, tra poco in diretta con l'inviato del Sole 24 ore dalla città irachena. Il maltempo si sposta a sud, mentre a Roma e nel Lazio si contano i danni. Il ministro dell'Ambiente Galletti: nella capitale manca la manutenzione. Banca d'Italia promuove la manovra espansiva e risponde ad alcuni temi chiave. Per la Corte dei Conti problemi sulle coperture. Ancora scontro aperto nel PD, Bersani crea sconcerto nei nostri elettori, dice il vice segretario Guerini, e lui prima o poi bisognerà rassegnarsi ad uscire. Stati Uniti, ultimi colpi di campagna elettorale mentre l'FBI assolve la Clinton a 2 giorni dal voto, Hillary risale nei sondaggi. Milano pensa ad aprire i nidi comunali il venerdì sera per consentire libera uscita ai genitori, CGL contraria. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. In apertura parliamo di Iraq per un aggiornamento sulla situazione di Mosul e per un racconto con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno, dove ti trovi e cosa vedi? Io sono oltre Bartella, che è l'ultima cittadina prima di Mosul. Siamo a 4-5 chilometri dalla città, sono arrivati adesso centinaia di profughi che hanno fatto sistemare qua vicino, sono arrivati con le bandiere bianche e marciando fino a questo punto del fronte, hanno attraversato le linee, stanno scappando dalla parte orientale della città, dove infuriano i combattimenti. Prima da Analì abbiamo visto arrivare centinaia e centinaia di persone che marciavano tutte in fila, sembravano quasi un quadro, quello di il quarto stato di Pelizza da Volpedo. E chiaramente siamo in una situazione di guerra e di conflitto che forse potrà andare avanti ancora giorni e giorni. Intanto abbiamo attraversato prima le linee dei Peshmerga curdi, e poi adesso ci stiamo avvicinando alla linea del fronte che è tenuta dalla Golden Division, dalla divisione d'oro cosiddetta dell'esercito iracheno di Baghdad. Questo è il quadro che hai visto fino a questo momento. Che informazioni ti sono arrivate dal fronte curdo? Tu arrivi da Erbil, che è appunto la capitale del Kurdistan iracheno. Che cosa ti hanno raccontato sulla situazione all'interno della città, all'interno di Mosul? Ma guarda, all'interno del Mosul la situazione è tranquilla, il problema è intorno. Incontrando Masrur Barzani, che è il figlio di Massoud Barzani, ma è anche il capo del Consiglio della Sicurezza Nazionale dei Peshmerga, ha detto una frase molto emblematica: guardate che qui la cosa più importante sarà il dopo, quello che accadrà dopo questa battaglia, e non pensate che dopo aver vinto la battaglia di Mosul l'ISIS è finito, qui le cose andranno avanti ancora per molto tempo, e lo si capisce bene dalle forze che sono in campo. Qui c'è in questa coalizione a guida americana, dove gli americani naturalmente hanno in mano l'aviazione, c'è un solo, in realtà un solo accordo politico-militare vero, che è quello tra il governo di Baghdad e i Peshmerga curdi. Poi intorno abbiamo le milizie sciite, che sono a 70 chilometri nella zona di Tal Afar, dove cercheranno di tagliare la strada ai jihadisti che vogliono fuggire verso la Siria. Mentre 20 chilometri nemmeno da Mosul, a Bashiba, nella località di Zerkan, sono acquartierate le truppe turche che hanno addestrato le loro milizie. Ebbene, tutti questi sono in qualche modo in competizione e in concorrenza tra di loro. Grazie dunque ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, in diretta, come avete sentito, da Mosul, e sicuramente torneremo a sentirlo nell'arco della giornata, nelle varie edizioni di GR24, nei nostri spazi di informazione. Veniamo all'Italia e veniamo alle cronache dal maltempo. 2 vittime, ora naturalmente si contano i danni, soprattutto a Roma e sul litorale, mentre il fronte si sta spostando. Sentiamo. Strade legate, traffico in tilt a Roma, nuovamente colpita questa mattina dalla pioggia battente dopo la tromba d'aria di ieri, che si è abbattuta sulla zona nord della città, causando anche 2 morti, uno alla Dispoli e l'altro a Cesano. Alla Dispoli il sindaco Crescenzo Paliotta chiederà alla Regione Lazio lo stato di calamità naturale. I danni, secondo una prima stima, ammontano infatti a centinaia di migliaia di euro. Anche nella capitale si contano i danni in tutti i quartieri: 70 gli alberi caduti, 150 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati fino alle 7 di stamane, e poi macchine distrutte, allagamenti ovunque con i tombini ostruiti dalla caduta delle foglie. A Roma il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti punta l'indice contro la giunta pentastellata. Manca la manutenzione della città, dice, e per questo ieri ci sono stati allagamenti e alberi caduti. A Firenze intanto cala la preoccupazione per la piena dell'Arno. I livelli dell'acqua sono tornati infatti sotto controllo. Il maltempo ora si sta spostando al sud, dopo aver flagellato le zone terremotate di Umbria, Marche e Lazio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dunque veniamo proprio al fronte del terremoto. Ancora 90 scosse di terremoto stanotte registrate dalla mezzanotte tra Marche, Umbria e Lazio. Si sono verificate nelle zone terremotate già colpite dall'ondata di maltempo sul centro Italia. L'emergenza si trasforma in nodo sicurezza contro i furti. È sparita infatti un'opera del 600 da una chiesa di Norcia e l'emergenza arriva a Montecitorio con una seduta speciale della Camera dei Deputati che accoglie tra gli oltre 600 sindaci italiani quelli delle zone terremotate. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, conferma l'impegno delle istituzioni anche nella legge di bilancio e annuncia: il concerto di Natale sarà dedicato alle popolazioni vittime del terremoto e li avremo qui il 16 dicembre. Tra i temi le richieste urgenti da inserire subito in legge di stabilità, come sottolinea Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno. Dal 2012 in poi ciascun italiano ha visto crescere la tassazione locale di 165 euro pro capite, però nello stesso momento i comuni hanno avuto 95 euro pro capite in meno da poter utilizzare per i servizi. Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che è intervenuto facendosi prestare la fascia tricolore da sindaco, dice: io la fascia mia me la rimetterò con lo stemma di Amatrice quando avrò la certezza che nessuno mi abbandona. È l'unica maniera per risarcire queste terre, una no tax area. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E anche di terremoto si è parlato nelle audizioni di questa mattina dedicate alla manovra, Banca Italia, Istat, Corte dei Conti, di terremoto e ovviamente di molto altro. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così il capitolo terremoto che è rientrato anche nelle audizioni di questa mattina. Quasi 8 case su 10 sono costruite nelle prime 3 zone a più alto rischio sismico e oltre la metà non è a norma, ha avvertito allora l'Istat. Gli interventi per la messa in sicurezza, ha aggiunto Banca Italia, sono necessari da tempo e da attuare con la massima rapidità. Quanto al giudizio sulla manovra, partiamo proprio da Banca Italia. Il provvedimento è espansivo e risponde a temi chiave, ha detto il vice direttore generale Signorini. Poi così Signorini sugli obiettivi di crescita. Ascoltiamo. Nello scenario programmatico, basato su un obiettivo di indebitamento netto per il prossimo anno più elevato di quanto indicato a settembre, il governo prevede per il 2017 una crescita del PIL pari all'1%. Questo valore è superiore alle stime dei principali previsori oggi disponibili, che variano tra 0,5 e 0,9, ma non è irraggiungibile tenendo anche conto delle ripercussioni sull'attività economica dell'orientamento nettamente espansivo della politica di bilancio. Dall'Istat quindi un'anticipazione sul quadro congiunturale. Il terzo trimestre dell'anno è caratterizzato dal prevalere di segnali di espansione dopo le difficoltà registrate nei 3 mesi precedenti, ha detto il presidente Alleva. Quanto alle misure della manovra, alle famiglie 1 miliardo di interventi, benefici anche secondo l'Istat per il 57% delle imprese. Dubbi infine della Corte dei Conti sulle coperture della manovra. Emergono taluni elementi di problematicità che inducono a qualche approfondimento, spiegano i magistrati contabili. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Sullo sfondo di tutto questo naturalmente c'è la strada avviata verso il referendum costituzionale di dicembre e lo scontro aperto all'interno del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, il PD alle prese con gli urli alla Leopolda, in cui si invitava ieri la minoranza Dem a lasciare il partito. Fuori hanno gridato i leopoldini, mentre oggi tocca all'ex segretario Pierluigi Bersani rispondere. Sentiamo cosa ha detto. Per singolare coincidenza, nello stesso momento si svolgeva un ballottaggio a Monfalcone, una roccaforte rossa, dove abbiamo preso una sberla storica dalla destra leghista, perché una buona parte dei nostri non sono andati a votare. Quindi io direi ai leopoldini, risparmiate il fiato, stanno già andando fuori. Io quelli lì gli dico dentro, ma se il segretario gli dice fuori, bisognerà rassegnarsi, vuol dire che avrà ragione chi va. Per Bersani il partito sta camminando sulle due gambe dell'arroganza e della sudditanza e si dice preoccupato dall'incrocio tra referendum e Italicum con un governo del capo e parte del Parlamento nominato. Su quel foglietto c'è scritto «Stai sereno», dice Bersani, «ma io voto no». E se il vice segretario Lorenzo Guerini risponde che Bersani crea sconcerto negli elettori del PD e ha una posizione strumentale, il premier Matteo Renzi rassicura «la stragrande maggioranza della sinistra sta con me, il resto è una bolla mediatica». Te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, passiamo a tutt'altre urne, non quelle del referendum evidentemente, ma quelle americane che si aprono domani. Non ci sarà bisogno di riaprire un'inchiesta nei confronti di Hillary Clinton. Le nuove email scoperte una decina di giorni fa non contengono nuove prove, almeno per ora. Questo è il contenuto della lettera che James Comey, il direttore dell'FBI, ha inviato il Congresso. Una inversione dunque di 180 gradi dopo il polverone che si era scatenato una decina di giorni fa con l'annuncio a sorpresa di Comey della scoperta di queste nuove email e della necessità di probabilmente riaprire questa inchiesta. Da lì in avanti Hillary Clinton si era trovata in gravissime difficoltà dal punto di vista dei sondaggi. In questo momento era riuscita a stabilizzare le perdite nei confronti di Donald Trump, restava in vantaggio nei confronti del candidato repubblicano. A questo punto, con la notizia positiva da parte dell'FBI, dovrebbe certamente recuperare per lei e per la sua campagna un sospiro di sollievo. Per Donald Trump, invece, come ha detto ieri, si tratta dell'ennesimo complotto dei poteri forti contro di lui. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Come sempre Mario Platero lo ritroveremo più avanti nel corso di Effetto Giorno con America 24 e tutti gli approfondimenti necessari. Andiamo a Milano, ora la Pinacoteca di Brera. Viene presentata oggi la mostra che ospiterà il presunto Caravaggio ritrovato, al centro di discussioni e polemiche. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. È stata definita la mostra della discordia. Già Palazzo Barberini e Capodimonte si erano rifiutati di esporre la giudizia attribuita al Merisi e ritrovata in Francia, che ora sarà invece visibile alla Pinacoteca di Brera fino al 5 febbraio del prossimo anno. E anche se il direttore Bradburn sottolinea che non è una mostra ma un dialogo tra opere d'arte, la decisione di esporre ugualmente quest'opera di non certa attribuzione ha portato, come sappiamo, alle dimissioni del storico dell'arte Giovanni Agosti, un fuoriclasse della storia dell'arte che collaborava con Brera da tempo, perché era contrario ad esporre all'interno di un museo pubblico un quadro ritenuto dubbio, che in Francia però è stato comunque valutato 120 milioni di euro. Bene, questa mostra intitolata Attorno a Caravaggio, una questione di attribuzione, vicino al quadro di appunto non certa attribuzione avrà un vero Caravaggio, che è appunto la cena di Emmaus, e che è affiancata anche da l'opera di un fiammingo, Louis Finson, molto simile alla tela ritrovata in Francia. Comunque ci sarà anche una giornata di studi a porte chiuse perché gli studiosi dell'arte possano esprimersi su quest'opera, e nel frattempo abbiamo raccolto l'opinione di Philippe Daverio, che era oggi in conferenza stampa, per sentire il suo parere su queste polemiche riguardo a questa mostra. Sono le polemiche fra una parte della cultura italiana che reputa che il museo sia quella cosa chiusa nella quale di domenica, dopo la grande messa e prima dell'aperitivo, arrivano dei signori in redingotta e lentamente guardano dei quadri impolverati che sono lì da sempre. Oppure l'altra concezione del museo, che è quella moderna, nella quale il museo deve svolgere costantemente una funzione di ricerca. La ricerca si fa solo toccando, mettendo una cosa accanto all'altra. E grazie ad Adriana Fracchia per questo racconto di questa mostra di Caravaggio al centro di molte polemiche. Andiamo a chiudere questa prima parte della trasmissione parlando di calcio, di un casting finito, quello dell'Inter a quanto pare, e poi naturalmente del campionato. Carlo Genta, ciao. Simone, manca l'ufficialità, insomma, Pioli sarà il nuovo allenatore dell'Inter, però ieri Ausilio ha detto in tutte le maniere che serve questo comunicato ufficiale. Ieri parlava di 48 ore, lo aspettiamo quindi tra oggi e domani, ma Pioli io credo domani sarà in campo con ciò che resta dell'Inter, perché come sappiamo ci sarà la pausa per le nazionali, quindi un po' tutti in giro per il mondo, però il compito di Pioli è appunto di risollevare questa squadra che ieri sera comunque ha trovato nel segno del solito Icardi, già 10 gol in campionato, una vittoria non semplice, perché l'Inter ha dato in gol solo nel finale contro il Crotone. Per il resto una giornata che cambia nulla in testa alla classifica, perché vincono le prime tre, la Juventus in casa del Chievo, la Roma nel segno di Salah, tripletta per lui, in casa con il Bologna, e il Milan che vince nel finale a Palermo. La sorpresa è certamente l'Atalanta, che continua a vincere, anzi in questo caso stravince con questo 3-0 sul Sassuolo. E poi il Napoli che continua a soffrire la sua piccola crisi e le sue incomprensioni tra presidente e allenatore. Questo è il quadro di ciò che è successo ieri, e adesso sosta per la nazionale. Ovviamente i grandi club lavoreranno con, ripeto, come l'Inter, con ciò che resta dei giocatori disponibili. Marchisio, questa è una notizia di oggi, era stato convocato da Ventura ma è tornato a casa, ricordiamo che è appena rientrato da un lunghissimo infortunio, 6 mesi per la rottura del crociato, e quindi lavorerà a Torino con il gruppo. Simone, grazie caro. Dunque ti ritroviamo come sempre a partire dalle 14 con tutti i convocati. Adesso ci fermiamo, sentiamo cosa succede sulle strade, poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo proprio dalla Dispoli, colpita ieri da una brutale ondata di maltempo, c'è stata anche una tromba d'aria perché ha visto le immagini, erano veramente impressionanti, e poi parleremo di questa idea che sta iniziando a circolare nel comune di Milano, ossia aprire i nidi comunali la sera del venerdì per consentire la libera uscita ai genitori, e la CGIL già si oppone. Parleremo con la sindacalista della CGIL che sta seguendo la vicenda per farci spiegare perché. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione vi abbiamo raccontato con la cronaca in diretta da Mosul il racconto dell'inviato del Sole 24 Ore sui profughi, sulla situazione nella città irachena dove si combatte la battaglia contro l'ISIS. Se vi siete messi in ascolto solo adesso potete riascoltarla sul nostro sito www.radio24.it. Abbiamo parlato del maltempo, abbiamo parlato delle audizioni sulla manovra, abbiamo parlato dello scontro aperto nel Partito Democratico, abbiamo parlato delle elezioni negli Stati Uniti che stanno arrivando, si vota domani. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo il nostro giro parlando di maltempo e andiamo alla Dispoli col sindaco Crescenzo Paliotta. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, le immagini i nostri ascoltatori le hanno viste tutti di questa tromba d'aria che ha colpito la vostra città, ha portato devastazione un po' su tutto il litorale romano, molti problemi tra l'altro per il maltempo oggi proprio nella capitale, alberi abbattuti, allagamenti, traffico in tilt, scene consuete quando piove tanto a Roma, a dir la verità. Da voi come stanno le cose? Ma alla luce del giorno, diciamo, è più chiaro il quadro dei danni. Allora, se ieri sera erano definiti i danni alle persone con 20 feriti e purtroppo una persona morta, dei 20 feriti uno è ricoverato ancora in ospedale e gli altri sono stati dimessi. Per quanto riguarda invece i beni materiali, si va dalla distruzione quasi completa dell'approdo dei pescatori a danni ad un ponte, ad una scuola, poi centinaia di alberi caduti, lampioni, e poi ci sono siamo arrivati a 300 segnalazioni di danni ad abitazioni, alcuni delle quali sono stati visti un po' in tutta Italia, cioè al sesto, settimo piano, anche ottavo piano, sì. Addirittura è staccata una parete. Poi ci sono centinaia di case dai quali è volato il tetto, le tegole, tutto quello che copre. Avete chiesto lo stato di calamità, sindaco? Sì. Immagino che sia un po' presto per fare una conta dei danni, no? Sì, è ancora presto. Diciamo, in termini economici, dico, in termini di necessità, sì. Di stanziamento. No, per ora siamo all'elencazione e penso che domani potremo anche cominciare a fare un conteggio. Ora abbiamo pronto l'elenco e stiamo per deliberare la richiesta di stato di calamità naturale alla Regione Lazio perché appunto si arrivi anche alla possibilità e speriamo di poter risarcire anche i privati che sono stati danneggiati. La ringrazio, grazie Crescenzo Paliotta, che è il sindaco di Ladispoli, per essere stato con noi e per averci dato questo aggiornamento. Il nostro giro per l'Italia adesso ci porta a Milano, perché sta suscitando un po' di dibattito la proposta di una consigliera comunale milanese di far aprire gli asili nido anche il venerdì sera, per far cosa? Per consentire una libera uscita ai genitori. In realtà la sperimentazione già c'è e va avanti, inizierà da questo mese sostanzialmente, in 11 comuni della Brianza, dove appunto si apriranno gli asili nido ad un costo di 15 euro per i genitori, quindi molto meno di una babysitter, e gli si consente di andare a farsi una cena a lume di candela o passarsi una serata con gli amici o schiantarsi davanti alla televisione un po' tranquilli, anche se ne avessero voglia. Insomma, tutti noi che abbiamo figli sappiamo che anche questo è un elemento di riposo. La CGIL si oppone a questa ipotesi, quantomeno per quanto riguarda i nidi comunali di Milano. Tatiana Gazzaniga è responsabile del comparto Ministeri e Comune di Milano, CGIL Funzione Pubblica. Buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Come mai non siete d'accordo? Già in campagna elettorale la consigliera Pirovano aveva fatto questa proposta come una proposta di cambiamento importante per il benessere della coppia. Allora, le ragioni sono fondamentalmente due. Una che riguarda e attiene il benessere dei bambini e il fatto che i bambini devono, come dire, almeno una sera poter contare e tornare nella loro casa, nel loro nido, e di essere, come dire, accuditi e di poter dormire nel loro letto e non essere portati in giro soprattutto. L'altra è la questione di che però, cos'è una però Cazzani, anche una volta a settimana, e non è detto che avvenga tutta le settimane, una volta al mese, beh, insomma, no. La seconda questione è legata a che cos'è un asilo nido. Un asilo nido è un servizio che ha un progetto educativo e che non è un luogo dove i bambini vengono lasciati per 2-3 ore la sera, ma tutta una progettualità. Inoltre, per poter aprire un asilo nido ci sono anche degli standard minimi, il rapporto numerico, il patto che deve essere prodotto all'interno dell'asilo nido, il fatto che le educatrici non possono rimanere sole, quindi ci vorrebbe il personale ausiliario. A Milano ci sono 103 nidi, sì, e secondo la proposta avanzata dalla consigliera bisognerebbe aprirli tutti per dare a tutti i genitori l'opportunità di fare questa scelta, e aprire 103 nidi per circa 6.000, per dare opportunità a circa 6.000 famiglie di poter portare i bambini, sicuramente creerebbe dei problemi e anche un problema di risorse economiche, che è il secondo tema. Senta. Risorse economiche che secondo noi prioritariamente dovrebbero essere spese, per esempio, per dare a tutti i bambini disabili un educatore di sostegno, cosa che oggi con le risorse in campo diventa difficile. Sì, questo lo sappiamo e l'abbiamo raccontato molto spesso dai nostri microfoni, però mi scusi, la sperimentazione c'è e avviene, è chiaro che non è su una dimensione come quella milanese, cioè parliamo di 11 comuni della Brianza, però se qualcuno lo fa, una sperimentazione che deve partire, come dice lei, su una dimensione molto più piccola, quindi chiaramente anche con un impiego di lavoratori e di risorse diverso da quello che ci sarebbe a Milano, e poi bisognerà vedere che numeri coinvolge, perché c'è un altro tema: a quali famiglie ci rivolgiamo? Perché io conosco moltissime famiglie che non si possono neanche permettere di uscire la sera a mangiarsi una pizza o a vedere un film, perché ovviamente quelli che se lo possono permettere o quelli che, ripeto, se io mi voglio schiantare la sera a casa davanti al televisore senza avere il bambino che piange per una volta al mese magari, e non ho i nonni sotto mano, perché ci succede questa cosa, insomma, a noi genitori, magari per una volta ci penso, mi guardo un film a casa con mia moglie. Sì, ma il servizio, l'asilo nido, ripeto, è un servizio educativo, è un luogo che ha un progetto, non è un luogo dove i bambini vengono portati alle 7:30, ritirati alle 22:30. Comunque io mi devo alzare dal divano dopo che mi sono schiantato alle 22:30 per ritirare il bambino, o pensiamo di poterli fare dormire tutta la notte all'asilo nido? Ci sarebbe comunque un problema di personale. Come facciamo a aprire gli asili nido lunedì mattina? Poi con quale personale gestiamo? Già oggi, nonostante la legge Madia, abbiamo delle difficoltà, perché veniamo da tanti anni di blocco del turnover. Mi scusi Cazzaniga, non sareste disposti nemmeno a sperimentare? Cioè prendiamo quattro asili nido pilota a Milano, 10 asili nido. Come fa la donna della periferia? Dove ne apriamo? In via della Spiga, l'asilo nido pilota? Come fa la donna della periferia a permettersi di schiantarci sul divano? Oppure devo attraversare tutta la città per portare mio figlio alle 7:30 e ritirarlo alle 22:30? Qual è il mio momento di relax? Dove ne apriamo questi nidi? Milano è molto grande, i servizi sono tanti. Lo fa pilota per i bambini della zona, mi scusi, cioè questo sto dicendo. Siete disposti? Nemmeno una sperimentazione. Io sono disposta invece a fare una discussione su questo tema, perché ci sono state anche altre sperimentazioni in Europa diverse. Per esempio, ricordo che a Parigi, per sostenere le madri che avevano partorito, il comune prevedeva la possibilità di avere una babysitter per il riposo, oppure qualcuno che venisse a casa a farti le pulizie o ti facesse delle commissioni che tu non potevi fare. Ecco, allora facciamo un'altra cosa, visto che ci sono tanti convegni che parlano di condivisione, che parlano di banca del tempo, oppure, visto che abbiamo già un albo delle badanti presso l'assessorato ai servizi sociali, non possiamo pensare a fare un albo delle babysitter, magari che vengono formate dal comune, partecipano anche con le nostre educatrici a corsi di formazione, sulle quali facciamo un prezzo calmierato, magari abbiamo anche un controllo fiscale, così magari non ne paghiamo più in nero. Beh, insomma, ci sono tante Lei dice, altre ci sono, ci sono altre ipotesi e altre soluzioni. La ringrazio, grazie a Tatiana Cazzaniga della CGIL per essere stata con noi. Ci fermiamo, la borsa, ci ritroviamo tra un attimo e lunedì ci pigliamo una storia più leggera. Oggi ci pigliamo il comune di Savona che decide di dare il patrocinio a un convegno sugli UFO nel quale c'è anche un uomo che sostiene che gli alieni gli hanno salvato la vita. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: il maltempo si sposta a sud mentre a Roma e nel Lazio si contano i danni. Il ministro dell'ambiente Galletti dice nella capitale manca la manutenzione. Banca d'Italia promuove la manovra espansiva e risponde ad alcuni temi chiave. È possibile raggiungere una crescita dell'1%. Per la Corte dei Conti però ci sono problemi sulle coperture. È ancora scontro aperto nel PD, Bersani crea sconcerto nei nostri elettori, dice il vice segretario Guerini, e lui prima o poi bisognerà rassegnarsi ad uscire. Stati Uniti, ultimi colpi di campagna elettorale, l'FBI assolve la Clinton e lei risale nei sondaggi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Due ricercatori secondo i quali su Marte ci sarebbe vita intelligente e uno scrittore il quale sostiene che gli alieni gli hanno salvato la vita sono tra i protagonisti di un convegno ufologico che verrà ospitato però in una sala comunale, nella sala rossa del comune di Savona. Il sindaco Ilaria Caprioglio, buongiorno, ma che succede? Buongiorno. Ma infatti che succede? Mi sembra veramente troppo chiasso per nulla. Noi abbiamo concesso il patrocinio per un convegno serio, scientifico, e anche perché no, comunque per un qualcosa di culturale. Cioè, ma io cito per tutti un libro, fra l'altro, che avevo letto un po' di anni fa, di Carl Gustav Jung, un mito moderno, no? Le cose che non si vedono in cielo. E che proprio Jung, mi ricordo, spiegava che queste oggettivazioni fantastiche, no, sono ma al di là dell'oggettivazione, ma questi sono convinti davvero, cioè lei, come dire, dandogli la sala rossa al comune e il patrocinio, lei gli dà in qualche modo, no, un allure di scientificità. Ma allora, noi qualcuno ci scrive è una belinata, per dirla alla ligure. Addirittura. No, allora, noi diamo il patrocinio comunque e torno a ripetere, è gratuito, perché poi qua si sono spese parole su parole. Vabbè, ho capito, guardi, lasci stare gratuito o non gratuito, però il tema è importante, perché qua mi stanno dicendo che siccome ci sono stati tagli alla cultura e di conseguenza dicono perché date dei soldi a loro. Non diamo dei soldi, fanno tutto loro. Però gli date il patrocinio e la sala. Il patrocinio perché, allora, noi solitamente la sala rossa del comune di Savona la diamo gratuitamente alle associazioni che ci richiedono di fare convegni o incontri. Quindi se arriva, mi scusi, brevemente perché abbiamo veramente 10 secondi, se arriva un'organizzazione antivaccinista, lei gliela dà la sala rossa? Allora, noi dobbiamo valutare, e in quel caso ci devo fare una riflessione, ma anche in questo caso ho fatto una riflessione, però nelle tematiche che ho visto, e si parla di ricerca, se ci sono possibili forme di vita oltre la nostra, su Marte per esempio, cioè NASA, ESA, li stanno facendo investimenti su questo, non mi sembra una cosa così strana, ora che ci sia un'associazione che sia contraria, d'accordo, mi sta bene, rispetto per tutti, però come diamo il patrocinio anche a associazioni religiose, non vedo perché non possiamo dare questo patrocinio. Allora la ringrazio. Guardi, un po' assurda. Devo chiudere perché sennò mi ammazzano. Grazie Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, e mi scusi per il poco tempo che le abbiamo dedicato, magari una volta ci torneremo. Mario Platero.